Grazie a tutti e due per essere tornati a Gran Varietà. Prego. È un piacere. Non ti sembra un po' cambiato? Lo trovo più alto, più biondo. Ma chi? Dorelli? Ma non è Dorelli. Ah, no? E chi è? Permettono, è Raimondo Vianello. Piacere. Fortunatissima. È parente di Dorelli? No, grazie. No. Collega, ecco, diciamo collega. E come forse loro non sanno ancora, e per ragioni di freschezza di programma, si è deciso di avvicendare i presentatori. E io sono appunto qui ad intervistarvi. Posso? Ma prego, prego, faccia pure. Dunque... È contento di presentare questo programma? Io? Ah, sì, molto, molto, molto. Io lo presento molto volentieri. È un ragazzo intelligente. Questo è un programma che le darà una certa popolarità. Vedrà che poi farà anche del cinema. Ma speriamo. Ma no, guardi che io il cinema lo faccio già, sa. Ah, sì? Ma tu guarda i giovani di questi tempi, che fortuna hanno, eh? No. Auguri, giovanotto. E adesso dica pure che noi siamo qui con i nostri personaggi. Sì, che si scrivono non più da Roma a Roma, bensì da Roma all'Elba, dove lei sta in villeggiatura. Lei è la solita donna svagata e illogica. E lui è il povero marito. E coraggio, dica tutto questo. Io? Ah, no, no, non mi permetterei mai. No, no, no, no. Signori, Eleuterio è sempre tua. Elba, 27 giugno 1967. Caro Eleuterio, sono qui con il mare davanti, di fianco e di dietro, ma vedo solo quello davanti perché l'isola è abbastanza grande, quindi non la vedo tutta, l'isola. E io penso che l'isola in fondo è solo una nuvola di terra sul cielo bagnato del mare. E penso anche che sei un cretino abituale. Non si insulta la propria moglie per 12 ostriche a testa che la poverina ha offerto agli amici. E sabato, quando verrai, ne parleremo a lungo. La sera fatti la minestrina coi dadi. Sempre tua. Roma, 28 giugno 1967. Indiscutibile sempre mia. Sono contento che tu abbia il mare davanti, di dietro e di fianco. Mi dispiace solo che tu non lo abbia anche sopra. Hai ragione. Non si litiga per 12 ostriche a testa. Anche se le teste, essendo 10, hanno fatto diventare le ostriche 120. Non si litiga nemmeno apprendendo che le ostriche suddette, native delle coste atlantiche, costano su piatto lire 1500 cada una. Non si litiga. Si spara. Eleuterio. Ho scritto. Ho seguito il tuo consiglio. Ho messo i dadi nell'acqua per fare la minestra. Uno schifo. L'acqua è rimasta acqua. E i dadi ora sono tutti scoloriti e senza numeri. Elba, 29 giugno 1967. Care Eleuterio, miciastro, nota l'indifferenza del mio generico gatteggiamento. Sono qui col mare davanti, che però è quello di dietro rispetto al mare davanti di ieri. Sono infatti sul versante opposto dell'isola, in gita con le signore dell'albergo. Qui si parla ancora delle ostriche. E io penso che un'ostrica è solo una scatoletta di carne in conserva di tipo marino. Sempre tua. Roma, 30 giugno 1967. Inenarrabile sempre mia. Anche qui si parla di ostriche. Ne parlo io da solo. Camminando, mangiando, lavorando. E più ne parlo e più mi rammarico della imperdonabile distrazione per la quale lasciai a Roma, venendo da te, il mitra che conservo dal tempo della guerra. Tu parli di ostriche come se parlassi di molluschi e basta. Ma ometti i particolari. Perché? Hai forse dimenticato i particolari, o no? E sabato, quando verrò, ne riparleremo a lungo. Eleuterio. Elba, 1 luglio 1967. Caro Eleuterio, micione. Certo che ricordo i particolari, Eleuterio. Mancava poco all'ora di cena. Tu e io guardavamo il mare, affacciati alla finestra del salone da pranzo. È notte, Eleuterio. Tu fissi un punto lontano e pensi. Che cosa pensi, Eleuterio? A che ora si mangia in questo maledetto albergo? Normalmente un'ora fa. Stasera, adesso. Ecco, vedi? Stanno entrando i nostri ospiti. Come i nostri ospiti? Perché nostri? Nostri perché li ho invitati io. E quello che è mio è anche tuo, Eleuterio. Li ho invitati a cena per stringere i rapporti d'amicizia. Devo stare qui 2 mesi, E invece dovresti stare in un altro albergo, altro tipo di albergo, cara. Uno di quegli alberghi pieni di infermieri, di dottori, vestiti di bianco. E ci dovresti restare per molto più di 2 mesi. Come sei spiritoso, Eleuterio. E anche avaro. Un invito a cena non ha mai rovinato nessuno. E poi una cena per modo di dire. Una dozzina di ostriche per uno e qualche altra cosa. Tanto per bere lo champagne. Ma dico, sei impazzita, champagne e ostriche. Ostriche, Eleuterio. Però le ho fatte venire dall'Atlantico. Ah sì, dall'Atlantico. E le offri così su piatti normali o hai fatto fare dei piatti d'oro da regalare ai nostri ospiti? No, no, no, no. Le offro su piatti normali, Eleuterio. Ma perché la giustizia degli uomini ritiene delitto la soppressione di una donna come te? Quante storie per 2 ostriche. Figuriamoci le storie che farai per la perla. Quale perla? La perla che ho fatto mettere in ogni ostrica. Non c'era. Vieni qui. Guardami negli occhi. E ripetimi la faccenda della perla. Nelle ostriche non c'erano perle. E allora ne ho ordinate un po'. E ce le ho fatte mettere. Vedrai che effettone. Glup! Non essere scorretto, Eleuterio. Che vuol dire... Del resto l'ostrica senza perla è come la sambuca senza chicco. E io non offro sambuca senza chicco. Che cos'hai, Eleuterio? Un attacco di cannibalismo. Vieni qui. Vieni, cara. Buon Eleuterio, pensa allo scandalo. Ci guardano, Eleuterio. Le ostriche, con le perle dentro. Buon Eleuterio. No, le armi no. E una bara coperta di fiori, color ostrica. No. Una bara colore perla. E io dietro, vestito di nero, nero come l'Atlantico di notte, io, il vedovo. Aiuto, un assassino, concierge. E i grisantemi, tanti grisantemi. Buono, Eleuterio, aiuto. Mancava poco all'ora di cena, Eleuterio. E per poche ostriche è successo tutto. E sei ripartito. E adesso stai per arrivare di nuovo, perché è il sabato dopo. E io farò finta di niente. Ti verrò incontro. Ciao. Ah, ben arrivate, Eleuterio. Di là c'è il gioielliere per quelle 150 perle, 120 per le ostriche. 30 in più le ho fatte mettere per una collanina per me.